E dunque, quante puntate, quante puntate sono che non lavoriamo insieme, Fedra? Ah, io in realtà penso di esserci 2 mesi, mi sa che non addirittura vengo. Infatti ti avevo chiesto di venire a dicembre, infatti tornerò a dicembre come co-conduttrice e qui sono come ospite. Ah, ho capito. Ma quanto manca a dicembre, scusa? 2 settimane. Oddio, per cui anche tutte le prossime 2 puntate devo farmele da solo, no? Ci sei anche tu. Perché adesso ti spiegherò cosa sto facendo. Cosa stai facendo, Fedra? Allora, ospite, scusa, cosa stai facendo? L'ospite non lo chiami per nome, che sono. Vabbè. Sto preparando un prossimo intervento performativo multimediale all'Ippodromo. All'Ippodromo, qua a Bologna? Sì, all'Arcoveggio. Wow. E quando sarà? Il 29, mercoledì 29 novembre. Mercoledì 29 novembre, per cui... Te lo segni? Me lo segno. Ma che carino, ci sarà? No, non ci sei, a Torino. Io sono a Torino. Però, infatti, insomma, se prendi il treno... Ma, non lo prendo anche il treno. Giovedì? No? No. Per le 9:30 non ci sei? Neanche se prendo il teletrasporto. Vabbè, però no, tutti se gli prendessi altri il teletrasporto 9... ce la farei. Caro Spock. Caro Spock, perché non hai ancora inventato il teletrasporto da Bologna a Torino? Perché io... No, Spock o io? No, Spock. Ah, ok, forse perché è morto, non ha fatto in tempo? Ah, giusto, è vero. E dunque? E sul Spock morto, proprio... un velo pietoso. E delle balle di fieno che rotolano. E volevo dire di nuovo, come tutte le puntate, a Giffo, che è l'unico che ci scrive... Perché la Susi l'abbiamo persa. Ma... sta a suonare in giro. Dobbiamo fare la puntata a tutte donne con i mandolini. Ah, fantastico. Però tu non dovrai esserci. Donne e mandolini, ma io non posso esserci. Potrebbe essere l'inizio di un romanzo. Forse questo. Potresti stare nell'altro studio e guardarci attaccato al vetro. E guardare i mandolini, sì. Mi sembra un'ottima idea. Dai, che come ospite non posso neanche imputarti il faccia al muro. Appunto, infatti. Quindi non te ne approfittare. Dei due io. E dicevo. Che strano essere ospite al Coxo, sai che si sta bene? Sì, sì, si sta bene. Anche in questo studio dove viene il torcicollo. Aspetta, che mi raddrizzo. No, effettivamente. Che... Così va meglio. Ah, no, appunto, stavo dicendo a Giffo di non chiamarci. Infatti, in questo studio non c'è giustamente, non c'è il numero. Ma lo chiamiamo noi, il Giffo. Numero. Chiamiamolo, lo chiamiamo? Lo chiamiamo per i saluti alla fine, vediamo se ci risponde. Dai, fantastico. Ovviamente proveremo in diretta registrazione, insomma. Sì, insomma, è così. Che dire? Il cappellino introduttivo l'abbiamo fatto. Mandiamo un branino? Mandiamo un branino, tipo questo. Aspetta che però devo... ho solo una mano. Eccola. Esce. No, sì. Non so che cos'è. You're not there. Stories, and you know I tell them right. I remember you and I when I'm awake at night. So give it up for fallen glory. I never got to say goodbye. I wish I could ask for just a bit more time. Every step I take, you used to lead the way. Now I'm terrified to face it on my own. You're not. Still write you all these songs. It's like you've got the right to know what's going on. As I struggle to remember how you used to look and sound, at times I still think I can spot you in the crowd. Every step I take, you used to lead the way, and now I'm terrified to face it on my own. You're not. They say you'll grow older and it'll get sta finendo la musica, Fede. Chiama mentre è finita. Ma questi brani, che belli, che finiscono così all'improvviso. Così, all'improvviso senza... Intanto che io sono al telefono con uno dei compositori che sta lavorando alla colonna sonora dell'intervento installativo multimediale e performativo per il 29, che sarà l'introduzione al lavoro. Ho capito. E infatti senti cosa risponde, tu. Faccelo sentire, dai, mettilo in villa voce. Ma i telefoni nuovi ti chiudono la linea in automatico. È vero, infatti sono stranissimi. Poco performativi. Molto performanti, ma poco performativi. Però possiamo farlo finto, tipo così. No, non c'è. Non c'è. Non si sente. Non si sente. No, Stefano, dai, che dobbiamo anche chiudere prima il coxo. Hai ragione. non abbiamo tempo, infatti, perché per varie vicissitudini siamo alla 197esima puntata del coxo, completamente disorganizzati. Abbiamo un ospite d'eccezione che eccezionalissima, che è super mega galattica. Si chiama Fedra Boscaro, Boscaro, che dir si voglia. Ma non puoi decidere come pronunciare il tuo. Allora, mettiamo i puntini sulle i. Ecco. Da dove vengo? Che sia chiaro una volta per tutte, da dove vengo? Si dice io... Boscaro, con Boscaro, la molto chiusa, Boscaro, esatto, tipo un quasi po' una... anche Boscaro così, ecco. Okay. Però a dirla così qua non mi capiva nessuno, capivano Foscaro, Fuscaro e cose così, quindi ho cominciato a prendere la pronuncia che pronunciavano agli Boscaro. Appelli all'università, certo. Oppure laddove leggevano il mio nome a voce alta, che era Boscaro o Boscaro, e siccome con questi accenti capivano, ho detto vabbè, uso questi, così facciamo prima, tanto all'anagrafe l'accento non c'è, e spero sempre di giungere a Boscaro una volta che avrò avuto la naturalizzazione francese. Ah, fantastic. Anche se non parlo il francese, però Boscaro fa molto più figo, credo. E tornando a noi, io sono qui perché oltre al coxo in questi anni, a dire la verità molto prima che il coxo ancora fosse nei vagoli pensieri, ancora prima di alle medie e tutto, ho cominciato un percorso di ricerca che si chiama Per un novissimo bestiario. Wow, mi sono emozionata anch'io. Hai visto? Sì, che è un progetto quindecennale. Quindecennale? Cioè sono 15 anni che stai facendo... No. Finirà, nel senso, nel 2021. Cosa c'hai là? Ho fatto l'esame del sangue oggi e mi sono dimenticato di togliere. Sì, tipo stamattina alle 7. Lo strappo al microfono, per favore. Al microfono. Fa malissimo. Eh sì. Ah! Ti sei spelacchiato un braccio. Mi sono spelacchiato un braccio in diretta. Vabbè, sono cose cocciche. Non c'abbiamo neanche. Tientelo pure nella taschetta tua. No, c'è il cestino. Ho fatto canestro da lontanissimo. Sangue. Vabbè, sei bravissimo a distrarre gli Beh, scusa, ma se tu che sei così teatrante, cosa vuoi? Cioè, una goccia di sangue secco. Di sangue secco, fra l'altro, infatti. Allora, dove ero arrivata? Stavo parlando di Marina Abramovic, che non apre più il. No, Marina è una cara collega. Una cara collega, anzi, chiamiamola. No, anche lei fa performing arts, ma non come le mie, quindi. No, infatti. No, appunto, ma dunque, da quanti anni è che fai questo? Questo lavoro è cominciato nel 2007. Hai festeggiato il decennale. Li festeggio proprio il 29. Con una performance che in realtà è una sorta di showreel di tutte le cose fatte nei primi due capitoli di questo percorso quindecennale, che è suddiviso in capitoli da un lustro ciascuno, e quindi ci saranno elementi che provengono da diversi dei lavori. Ogni lavoro è una sorta di ricerca per portare avanti il tema della ricerca sugli esseri simbolici del contemporaneo. E un'altra caratteristica è quella di cercare una vocazione partecipata di questa ricerca, ovvero che viene meno rispetto alle caratteristiche dell'artista egoico e insomma demiurgo e tutte quelle cose che ci hanno insegnato sugli artisti, sugli artisti cinematografici, artisti e visivi nel Novecento, e va più verso un'orizzontalità, anche perché se si tratta tra 5 anni, gli ultimi che rimangono, l'ultimo capitolo, di realizzare un bestiario delle forme simboliche del contemporaneo, che sarà uno spettacolo teatrale, un sito online e una pubblicazione, ovviamente viene da sé che non si può restringere il cerchio autorale, ma bisogna espanderlo per essere fedeli ai tempi che corrono. Assolutamente. Dico bene, esatto. Dico bene. Certo. Ma sei capito? Mi hai seguito? No, io ti ho seguito e io ho capito, però ho quello che mi preme e vorrei farlo capire agli ascoltatori. Facciamoglielo capire. Come funziona, perché a livello visivo penso che non abbiano capito niente di quello che succede. Dai, allora fammi la domanda. domande e io rispondo, come dall'analista. O se no vuoi che te lo descrivo io? No? Dai, vediamo, così poi ti cazzo. Allora, ti tu cozzo. Arrivi, ti siedi e vedi una roba tutta buia. Va bene così. Il teatro. Va bene così. A un certo punto si accende una luce e c'è... No. Ma tu hai visto, tu cosa hai visto di questo? Perché questo io ho visto lavoro quello nel cinema. Questo lavoro si compone di tantissime forme. Mm. E allora, quello che hai visto tu fa parte del secondo capitolo, e si chiama Appunti dispari, ed è il lavoro in cui io ho chiesto a degli artisti visivi di rifarmi i connotati secondo la loro poetica. E questi... Oh, c'è il musicista! Vai, rispondi. Ti rispondo. Ma rispondi, mettimi in viva voce, dai. Ah, in viva voce addirittura? Certo. Dai, che bello. Aspetta che il telefono... Ale, mi senti? Sì, sì. E noi lo sentiamo dalla noi radio? Noi lo sentiamo forte e chiaro. Allora, questo è Alessandro Gallarani, che io ho conosciuto nella formazione dei Caboto, ma quanto ormai? 17 anni fa, Ale, dico bene? 17 anni fa, ma scusa, sei in radio? Stiamo registrando ed è per questo che ti chiamavo prima. Mi chiedevo... Assassino, vabbè, ma è bello, no? Metterti in viva voce. Sì, sì, sei così. Bellissimo, hai detto molto coxico, lo garantisco. No, ti volevo chiedere, ma non è che a brevissimo giro riesci a mandarmi una traccia MP3 di quelle... No, aspetta. Sto preparando due. No, ma non del lavoro prossimo, ma del lavoro che abbiamo fatto insieme l'altro anno, quello alla Rocchetta Mattei. Allora, lì ho purtroppo solo le bozze che avevo fatto da farti sentire dei vari Asterione, dei vari personaggi, ok? Questi li posso dare. Ecco, potresti darmi la Dama Bianca, forse, che era quella che ci piaceva di più con quelle sonorità esatto, un po' più leggere. Esatto, io guarda, ho quei file che feci lì, ce li ho. E in più poi avrei già preparato un altro paio di robe e infatti te le volevo passare. Allora, passami pure le robe per il 29 e va bene, però passami solo la Dama Bianca, che gliela inoltro a Stefano, che poi la mette nel programma di domani, cioè che stiamo registrando adesso, a cui stai partecipando anche oggi. E che oggi è in diretta per voi. Pochi minuti. Fantastico. Ci sentiamo dopo, Ale, allora, grazie intanto. Un saluto, cara. Dama Bianca. Vabbè, ciao. Dama Bianca, ciao. Che bello, l'ascoltiamo subito dunque, visto che abbiamo questa coxità spazio-temporale, possiamo, vi presento... E così, dopo aver sentito queste atmosfere, sì, almeno un po' di... Dopo magari ce le spieghi. Sì, ti spiego che tipo di lavoro era, perché, vabbè, quello, niente, abbiamo lasciato un discorso a metà sul videomapping al corpo, però vabbè, insomma... Però adesso prima ci ascoltiamo, ascoltiamoci la Dama Bianca e poi continuiamo. Sì. Olè. Bella questa Dama Bianca, ma mi è piaciuta. Questa musica di sottofondo è un incubo, vero? Però, questa è un po'... Ah no, questi fra l'altro me le hanno spediti la settimana scorsa, perché nel frattempo sto facendo nuovi amici. Tu stai facendo quello che io auspico di fare da un annetto, ovvero delle partnership per il tappeto sonoro con dei compositori. No, è per caso, cioè non lo so perché a un certo punto... Invece a me piaceva più strutturato, ogni mese uno che ma lo so che tu sei una precisina, ma come io invece rifletto il caos del mondo, per cui vado così con il flusso, e mi è arrivato, mi stanno arrivando dei brani da questo ufficio stampa, non so da dove, ma la saluto Francesca, sì. Ciao Fra, che ci manda delle cose, e siccome la volta scorsa erano solo non cantate, ho detto allora lo metto nella cartella del background e glielo farai sapere poi. Certo, no, ma questo l'abbiamo già suonato, l'abbiamo suonato senza parlarci sopra la settimana scorsa. Sono gli Swank con ore 22. Mi ricordano un po' i Caboto. Ah, vedi? Bene. Allora, tornando ai Caboto, Alessandro Gallarani, abbiamo sentito questo intervento sulla Dama Bianca. E questa era parte della colonna sonora che lui in realtà poi ha esibito live in occasione del lavoro che abbiamo fatto alla Rocchetta Mattei la scorsa estate. E lì in realtà erano gli appunti pari, ovvero sono un percorso performativo che anche lì si appoggia sulla partecipazione autorale. Nel lavoro di cui ti stavo parlando prima della telefonata con Alessandro, io ho chiesto a degli artisti visivi di rifarmi connotati secondo la loro poetica, e poi questi contributi sono stati proiettati sulla mia persona, deformando in tempo reale con il video. Tutti gli intermedi erano video, giusto? Esatto, trasportati in video, applicati alla mia persona, e abbiamo ottenuto una performance di video map applicata al corpo della durata di 12 minuti, forse anche 13 le ultime, che ogni numero nuovo, diciamo 12:50, va bene, e, in cui quindi io mi lasciavo agire da questi altri immaginari. E negli appunti pari invece sono io che creo per dei danzatori dei vestiti fatti con materiali di scarto per realizzare gli immaginari che queste danzatrici avevano, non solo danzatrici in realtà, anche performer. Avevo anche con una critica, avevo in essere un progetto che poi non abbiamo realizzato perché il problema del budget. Comunque, realizzo questi vestiti che permettono loro di incarnare questa figura fantasmagorica femminile con la quale, che hanno nutrito con il proprio immaginario nel corso della loro crescita e via dicendo. Così come io in performance... così come io in performance devo rinunciare alla mia mobilità completamente, divento una sorta di schermo umano per lasciarmi agire da degli altri immaginari, loro, le danzatrici e le performer, hanno dovuto rinunciare alla mobilità di una parte del corpo, però questo è un dettaglio minore, diciamo. Ma la domanda che sicuramente i miei amici stanzonisti si porranno, quando tu vieni proiettata come schermo umano, sei nuda? Sono vestita di bianco, però a un certo punto divento una Barbie grandezza umano, alla quale spuntano due belle zinne e anche il pube con taglio, sembra che fosse San Francisco. Pube? Alle 8, sì. Sì. con un taglio alla San Francisco? Sì, quindi è proprio molto rettangolare, squadrato. Dopodiché comincia un po' la deformità e quindi la Barbie prende le fattezze del mio corpo e le tette si moltiplicano, forse tette non si può dire, le mammelle si moltiplicano e da lì poi tu ti ricordi la parte che ti ricordi meglio. Ah, sicuramente. mi è rimasta impressa, non riesco a toglierla dalla testa. La vagonata di mammelle. Esatto. No, comunque, fra l'altro, quella è la parte introduttiva che ho ideato io. Tutte le altre poi sono stati i vari contributi degli artisti, che a questo punto li ricordo. Il primo contributo è stato di Tommaso Arosio, che da quel momento in poi è entrato proprio come parte integrante nel percorso di ricerca. Insomma. E infatti insieme poi abbiamo fatto la ripresa dello spettacolo teatrale La Casa di Asterione, e gli appunti pari quando poteva c'era anche lui. E poi il secondo intervento è stato di Karin Andersen, che mi ha fatto diventare una marsupiale macchiata, che rimane sempre a chiusura dell'intervento perché io esco dalla mia pancia, poi, vabbè, insomma, ma bisogna vederlo. Ah, e certo. Il 29 potrete vederlo perché sarà anche parte di questo caleidoscopio che andiamo ad installare e ad applicare. Parlo di applicazione all'ippodromo. La terza artista che ha contribuito con un bellissimo lavoro in stop motion sulla verdura è stata Sonia Marcolin, E poi abbiamo avuto l'ultimo contributo di Nicola Riefolo, che invece ha voluto applicarmi addosso una fase teurgica, ovvero il percorso tramite cui nel Medioevo gli alchimisti trascendevano. Quindi è andata a fare delle ricerche in dei... com'è che si chiamano i libri antichi? Libri antichi? No, c'hanno un nome particolare. Vabbè, insomma, è andata a recuperare in una biblioteca francese delle icone. Mm-hmm. E tramite quelle, calcolando bene i tempi, le proporzioni, me le ha applicate addosso. E infatti è molto teurgica questa cosa, anche perché molto spesso per questioni di messa in scena è un po' difficile, perché avendo una visione frontale ed essendo la superficie ridotta al mio corpo, il pubblico, bisogna un attimo capire come sistemarlo, però il fuoco dello spettacolo è questo specchio, perché io lo faccio per me stessa a livello scenico questo lavoro. Rinuncio a me stessa per inebriarmi di questa fantasmagoria che stiamo perdendo. Esatto, ma questo lo farai per 15 anni, per cui per altri 5 anni hai deciso, e dopo i 15 anni cosa succede? No, ma in realtà questo lavoro faceva parte del secondo capitolo, che si conclude proprio quest'anno, e quest'anno cominciamo con il terzo. Però tutti i lavori possono essere portati in replica ovunque. Sono stata anche la portata, l'antipasto del dolce per un pranzo del G7, lavoro, era il G7 dell'università. Voi non lo vedete, ma io ero rimasto un po' di stucco. E c'è anche il commento sonoro, che è stato questo lavoro al suono di Valentino Corvino e la voce di Roberta Giallo, che l'ho conosciuta proprio attraverso questo lavoro, cara amica Roberta. Si è capito se va a Sanremo o no? Non si dice? Vabbè, ma tanto non ci ascolta nessuno, né? Beh, allora direi che possiamo far così. Facciamo così, visto che tu da ospite adesso, dai gli ordini. Io non so a che punto siamo del palinsesto. Siamo più o meno a mezz'ora. Cosa facciamo? Sentiamo il commento che ci manda Andrea Fiorini, che è l'altro autore sonoro che ha lavorato con me in tutti questi anni. Sentiamollo. Che è il commento sonoro per la coreografia di Asterione, che abbiamo fatto la prima volta nel 2007, da lì che è partito tutto, da questo lavoro teatrale che si chiama La Casa di Asterione. E detto questo, da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, se non sbaglio, posso anche linkare qualche video su YouTube, giusto? Ma io direi proprio di sì, anche se purtroppo sti lavori non rendono in video, però almeno un'ideetta, togliamo un po' la curiosità di vedere queste proiezioni sul tuo corpo, non dico ignudo, ma non questo, dico neanche questa è un'altra, è un lavoro, sì, una certo. Scrittura scenica multimediale. Poi mi dici che cosa vuoi, poi... cosa devo mettere, anzi magari lo metti tu. Molto bene, ascoltiamolo allora. E questa? Questa? Questa qui che abbiamo appena ascoltato era veniva dalla colonna sonora che Andrea Fiorini ha realizzato per questa scrittura scenica intitolata La casa di Asterione, tratta dall'omonimo romanzo di Borges, da cui un po' tutto è partito, perché lì abbiamo cominciato a lavorare sul tema del labirinto e su Asterione, che è ancora una, diciamo, è forse il nostro essere mitologico primo sul quale abbiamo cominciato a lavorare, che non è altro che il nome proprio del Minotauro, quello di Cnosso, quello ne stava lì e ammazzava i giovinetti. La mia ignoranza su tutto quello che riguarda l'epica e queste cose è veramente epica, la mia ignoranza, per cui... Tu racconta pure, io no, ma non c'è molto tempo, probabilmente, okay, sì, se no mi dilungherei troppo. Fra l'altro, in realtà dobbiamo fare 8 puntate solo su Fedra. Il mio nome, c'è il tuo nome, perché il nome che mi hanno dato, Fedra, sì, è la sorella del Minotauro, sorella, insieme ad Arianna e altri 3 o 4, 5, 6, 7, 8. Una famigliona eravate, sì, ho capito. Io, Arianna e Minotauro, figli di Pasife, vabbè, poi sarà per un altro coxo questo. E comunque Questo lavoro, diciamo, ha segnato un po' l'inizio di tutto il percorso di ricerca, perché arrivati alla chiusura di questa scrittura scenica, che la prima versione è stata fatta nel 2007 insieme a Andrea Fiorini, Livia Solmi, Serena Mezzina, in scena c'erano appunto Livia e Paola Stellaminni, e mi sa che eravamo tutti là, è abbastanza... e davanti c'era invece Ambra Curato, una grandissima attrice che purtroppo è ritornata a vivere a Venezia ed è un po' lungo perché abbiamo problemi di budget, non riusciamo a farla tornare. Ma ti ricordi tornare anche tutti quelli che erano in prima fila? No. La questione è che questo lavoro, la partecipazione, io credo fortemente che un'opera non possa essere di un unico autore. Io credo fortemente nel fatto che chiunque partecipi trasmetta al lavoro quella nota che lo rende unico, e quindi per me è importante considerare anche coautori, a maggior ragione se si tratta di scrittura scenica in cui si lavora proprio sia sullo spazio che anche sulla creatività e il valore aggiunto portato dai singoli partecipanti, riconoscere una percentuale, una partecipazione autorale a tutti, e ovviamente quindi sia gli artisti con cui ho lavorato nella fase di creazione, sia poi invece le persone che hanno riportato in replica, ripreso il lavoro già fatto, sono per me carissime in questo momento. Ma no, però i nomi, vabbè, sì, dai, che scherzo. In coda poi facciamo i nomi delle persone che parteciperanno il 29 e magari... Oddio, ho sbagliato. Di nuovo? Mi è scappato, però lo faccio andare. Bella menzione. E vai con le menzioni allora. Vado io. Io non c'ho nulla da leggere. Non c'hai nulla da leggere. Sabato ci sono un sacco di dille di un mostre. Po' così. Le diciamo un po' così. Allora, inaugura al Mambo Something About the Exhibition, Something About Compo. No, cioè a book from Cape Pocket Guide Series by Cable Magazine, con curatore artistico con Caterina Molteni e Francesca Vason. Ci sono un sacco di torinesi a Bologna in questi giorni. Tu vai a Torino. Sabato, esatto. Dopodiché alle ore 18 invece inaugura... questo era il Mambo, naturalmente, il Museo d'Arte Moderna di Bologna. Poi Emilio Vavarella, Recapture Rooms for Imperfection, a cura di Federica Patti, che penso che tu conosca. Moscimola, Patti, la conosci anche tu. E questa è sempre alle 18 di sabato, di domani. Da sempre il genere umano ha condiviso il mondo con entità non umane, animali, oggetti, elementi. Ci fermiamo qui. A Galleria Più, via del Porto 48 AB e così. Ma la Patti è in Galleria Più? A cura una mostra. Ma in Galleria Più. Ma dai, che Più. Bello, vedi. Hai come visto? Tutto torna. E non c'è altro? No, invece sì, poi inaugura anche I Never Asked to Be Your Mountain. Non ho mai chiesto di essere la tua montagna. Fabrizio Pergem, Fabrizio Pergem, Francesco Snote e Marco Strappato, è una tripla mostra, una mostra con 3 artisti, a cura di Valentina Lancinio, che se non sbaglio è torinese anche lei, e questo invece è a Locale 2, sempre sabato, che inaugura alle 18.30 in via Azzogardino. Sono stato velocissimo e bravissimo, non si è capito niente. Venite, insomma, in zona mambo domani. E da domani su www.coxospaziale.blogspot.com trovate tutto quanto. Per approfondire. Ma scusami, perché tutti questi torinesi vengono qua a trovare lavoro e io vado a Torino? Così, perché... I misteri del coxo. Allora, facciamo così. Ecco, poi dovevi dire qualcos'altro, giusto? Sì, che io volevo... Almeno abbiamo parlato dei compositori. E parliamo anche delle altre persone che mi aiuteranno, cioè rivivizzare e applicare all'ippodromo sta roba del bestiario, sta mappazza di roba che tanto non si è capito niente, sì, di quello, infatti, che è, però. Cercando nuovissimo bestiario su Google si trova il blog, oppure andando su www.coxspaziale.blogspot.com troverete il link della situazione che vi farà capire forse qualcosa. Un po' difficile, se venite il 29 è meglio. Se capisce prima, poi al massimo con lo spritz lo spiego. E allora, il 29 saranno in scena con noi, appunto abbiamo Laura Ulisse, Francesca Burzacchini, Livia Solmi, Miriam Costa, sì. Chiara Zompa. È parente di Nica Costa? Chi è Nica Costa? Non lo so, non c'è la TV. Non c'è la TV. No. E poi ci saranno i contributi di Tommaso Arosio, che comunque sarà alla regia, e insieme a me. Io forse sarò anche in scena, adesso vediamo un attimino chi c'è e chi non c'è. Ah, siete ancora così alla preparazione. Poi c'è Gaia, che siccome è minorenne non diciamo il cognome. Ah, fantastico. E Livia Solmi, l'ho già detta? No. Livia Solmi, che anche non lei... Non ti dimenticare di Livia Solmi, perché lei è un sì. fondamentale. Forse. Mm-hmm. Forse. Alice. E se poi non viene? Non si sa, me lo sta. Vabbè, insomma, tanto queste da qua cose... al 29 comunque c'è ancora tempo. Alice, poi, Monti. Alice Monti. Alice Monti, pronipote di Vincenzo Monti. Poi ci saranno anche la Sonia Marcolin, che è quella che ha già partecipato all'altro lavoro sulle proiezioni sul corpo, che arriva qui, e lei avrà la curatela e la creazione e l'applicazione sul corpo dei performer delle maschere di argilla elaborate. E poi mi sa che per questo giro siamo più o meno tutti. Poi ci saranno alcune persone che ci aiuteranno a fare nel ruolo di assistenti mefistofelici, ovvero i tecnici di scena in scena. E dobbiamo tagliare? Sì. Allora taglio, io i nomi li ho detti, volevo solo dire che ci sarà anche il contributo di Ilaria Vecchi, che è un'allevatrice di cavalli, che ci concede a video di fare delle riprese tematiche in sito sempre all'ippodromo con dei suoi cavalli da corsa. E vabbè, poi ovviamente ringraziamo tutti quelli dell'ippodromo. Velocissimissimo, Roberta Giallo, anche lei ci ha aiutato con i contributi sonori, ma anche negli appunti pari, e perciò voglio farti sentire questa cosina che ha realizzato, proprio una sorta di cosa fatta, insomma, in due secondi, non c'ha... per noi, che sarà uno spunto per delle cose che faremo in futuro. Ok. Abracadabra, che ascolta l'animale della domanda, o respira forme di scheletri pneumatici celesti serpi. Yantra mantra tantra, natura del convincimento fatta tra i battiti. Rolling up, sbadiglia di umido urano, petrolio lacolante, ostacolo del tempo, la bocca chiusa del racconto. Cava sentir, castagna per lo schiaffo dell'abisso. E quindi il 29 novembre, un mercoledì, all'ippodromo Arcoveggio, tutta questa cosa di cui vi ho parlato avrà esito, e lo avrà in occasione di una cosa importantissima che per me è proprio una sorta di casa bolognese, e non solo casa, ma anche qualcosa che ha dato ospitalità non solo a me, ma a tanti che come me lo fanno non so come dire, non riescono a smettere, che si chiama Per Aspera Festival, che quest'anno compie 10 anni. Allora, per chiudere la puntata, io ho pensato di invitarti ad invitare, caro Stefano, una super mega ospite telefonica d'eccezione, che si chiama Maria Donnoli. Ciao Maria. Buonasera. Che sono 10 anni che si occupa dell'organizzazione e della comunicazione di questo festival, che insomma, per Aspera ne avrei tante da dire, ma a questo punto le faccio dire direttamente a Maria, che è anche un po' l'anima e il cuore di tutti questi 10 anni, se vogliamo, insieme ovviamente a Gnoruffolo, che è il direttore artistico, poi c'è il direttore tecnico, che è Vincenzo Scorza, e poi tutto il resto lo dirà lei, perché io non sono co-conduttrice adesso, io no, sono per ospite. Niente. Infatti non sembra assolutamente una co-conduttrice. Ciao Mary. Ciao, intanto vi ringrazio Fedra e Stefano per i vostri inviti, che sono sempre un grande piacere per me e per noi, sia che siamo seduti lì in studio, sia che siamo in questo momento in casa, perché ho un frugoletto di 1 anno e mezzo che non mi fa muovere molto facilmente. Beh, intanto complimenti. Che meraviglia fare ricerca teatrale e fare anche i frugoletti in casa, quindi meraviglia. Non è semplice, la vera sfida. Ma si può fare, esatto. L'importante sì. È sapere che si può fare. Sì, sì, testimonianza vivente che si può fare. Allora, Partiamo per Aspera. Che cos'ha di diverso da tutti gli altri festival? Allora, intanto per Aspera quest'anno ha di diverso che ha deciso di non chiamarsi più festival. C'è un motivo sostanziale, non è una questione puramente nominale o di nomenclatura, ed è legato alla forma che per Aspera ha assunto nel corso del tempo, quindi non è più una forma sequenziale come aveva all'inizio, quando eravamo in Villa Mazzacorati, e tu ricordi perfettamente perché dalla prima edizione eri lì con i tuoi progetti, ma ha una forma... C'era anche il labirinto lì, scusami. Che meraviglia, anche Vincenzo Scorza, che qui a fianco a me, se lo ricorda bene, il labirinto di Villa Mazzacorati col nuovissimo bestiario di Fedra, annuisce, sì, se lo ricorda. dicevamo, una forma che non è più quella di un festival, ma è costituito da interventi che sono diffusi nel tempo e nello spazio, e questa edizione, che è la 10ª, è iniziata in ottobre con 3 appuntamenti nella città metropolitana, e siamo stati prima nella bocciofila di Osteria Grande con Zimmerfrei, e siamo stati poi a San Lazzaro in uno spazio pubblico con un intervento di arte pubblica di FET Studio, e poi anche ad Ozzano nelle vecchie cantine Bouton, le vecchie distillerie Bouton, con un intervento site specific del collettivo La Santa Barbara. E adesso ci spostiamo a Bologna con altri 3 interventi più un workshop che chiudono questa 10ª edizione di Per Aspera, e lo chiudono in bellezza con il lavoro di un artista che si chiama Fedra Boscaro, che proprio da Per Aspera è partita. L'ho sentita nominare, dov'è che l'ho già sentita nominare? Senti, ma sono tutti, e sarà tutto nell'ippodromo l'intervento a Bologna? No. Il primo intervento è il 24 di novembre negli spazi del SI, via San Vitale 69, dove presenteremo un lavoro di... Com'è? Scusa Maria, è uno spazio teatrale quello? Oppure trovato gli anfrattini? No, è uno spazio teatrale che però verrà molto molto rivoluzionato per il tipo di utilizzo che ne vogliono fare, Teatro delle Moire con Alessandro Bedosti, che sono i protagonisti dell'intervento che ci... Bravo Bedosti, 24. Ma proprio bravo e bello! No, davvero. Sì, tra l'altro Bedosti è un po' come Fedra, nel senso che è un artista che ci sta molto a cuore, che sta molto a cuore a Per Aspera, e Per Aspera ne ha ospitato tutti tutti i lavori che sono stati ideati, quindi tutti i lavori di cui che nascono da un'idea di Alessandro sono stati ospitati nelle diverse edizioni di Per Aspera, spesso anche in forma di studio come anteprime, e quindi ci fa molto piacere ospitare anche questo lavoro che fa insieme a Teatro delle Moire. È un lavoro surreale, straniante, una performance che è quasi un rituale, che appunto verrà ospitato negli spazi del Sì, che verranno stravolti, diverranno irriconoscibili, quindi uno spazio teatrale che in realtà verrà svestito della sua componente teatrale, che diventerà un non luogo per lasciare gli spettatori sospesi di fronte a questo rito. Mi piace. E dopo? E dopo passiamo all'ippodromo. All'ippodromo. Ormai l'ippodromo intanto, cioè come noi siamo entrati in relazione con l'ippodromo a giugno, quando abbiamo progettato la prima edizione di una rassegna che si chiama Temporanee e che seguiva il filo dei luoghi del lavoro, quindi portava l'arte ad interpretare i luoghi del lavoro, in particolare all'interno del quartiere Navile, e qui abbiamo selezionato l'ippodromo e lo abbiamo affidato ad un lavoro site specific di Fabrizio Favale Le Supplici, e ci siamo innamorati di questo spazio perché è un contesto assurdo, è assurdo. Io non sono mai stata, è pazzesco, non so quanti di noi siano stati all'ippodromo. Forse io ci sono stato da bambino, forse mi ha portato mio nonno, però effettivamente ho un ricordo piuttosto vago. Quando di le cose erano ancora diverse, perché io ho fatto diversi sopralluoghi, ho preso contatti anche con le persone che ci lavorano, quindi ormai so come era. Ah, ecco, ottimo. L'ippodromo quest'anno credo compia 85 anni, è anche il compleanno dell'ippodromo questo. Ah, che bello. Compleanni dopo compleanni quest'anno. Esatto, appuntamenti, anniversari, questo è un anno in cui si rincontrano tutta una serie di energie. E abbiamo scelto l'ippodromo perché è uno spazio che secondo noi merita molto di essere conosciuto dalla città, ed è uno spazio molto suggestivo per gli artisti, estremamente ricco di suggestioni, e dopo averlo affidato a Favale lo abbiamo affidato a Fedra, che ne farà un'interpretazione performativa, multimediale, installativa, che sfrutterà, diciamo che diventerà parte, entrerà all'interno della struttura tecnologica e architetturale dell'ippodromo. Maria, è meraviglioso, è meraviglioso perché io è un'ora che cerco di parlarne, arrivi te e in due minuti hai già descritto tutto e quindi con la precisione chirurgica che ti contraddistingue, e quindi no, infatti ed è pazzesco come riesca a dare suggestioni diverse, quindi Fedra e gli artisti che lavorano con lei ne hanno dato un'interpretazione, Fabrizio Saio, che farà lì un workshop gratuito il 25 e il 26 di novembre, ne ha dato un'interpretazione completamente altra, parlando di spazio, di rapporto del corpo con lo spazio e con il suono. E un'interpretazione ancora diversa invece è quella del 25 sera, quando tutto l'appuntamento, quando tutta la serata sarà dedicata a Tempo Reale, che è il centro di ricerca e di sperimentazione musicale più importante in Italia, fondato 30 anni fa, quindi altro compleanno, a Firenze da Luciano Berio, e che il 25 sarà a Per Aspera con due interventi, che è una nuovissima installazione di sound art di Francesco Giomi, che si chiama The Geyser, e con un live electronics del duo Casciaro Miele con il progetto Bardo Todol. Ah, vedi? Sacco di roba, e poi da domani sul blog, esatto, tutti i link per andare a spulciare e ad approfondire. Però io continuo a farla conduttrice, mannaggia, Stefano, non scusa, ce la puoi rimettimi fare. Al mio posto. Vabbè, ma del resto è il tuo mestiere, per cui ti lascio tranquillamente la palla. Ma quanti complimenti mi state facendo, ragazzi? Allora, salutiamo Mary. Sì, che c'ha il pargolo. Esatto, c'ha il pargolo e noi abbiamo. Abbiamo da fare i saluti. Abbiamo da fare i saluti. A salutare Giffo. Ci sta finendo la trasmissione. Dobbiamo provare a chiamare Giffo, forse. Dobbiamo provare a chiamare Giffo, ma forse magari lo chiamiamo la settimana prossima. Dai. Mary. Ragazzi, io spero di vedervi presto. Beh, Fedra la vedrai sicuramente, me è forse sì. Un po' più difficile visto che fate tutte ste robe di mercoledì, non so perché. Come ma... di mercoledì? No, solo quello di solo la chiusura di mercoledì, Ma che chiusura? Ma si può chiudere di venerdì di sabato? Di venerdì e di sabato. Venerdì e sabato, quindi... per cui non ho scuse. Molto bene. Esatto. E tra l'altro anche la domenica mattina, perché ecco, questo già mi interessa di più. Sì, il messaggio che volevo lasciare agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Città Fujiko è proprio questo, di andare ad approfondire la proposta di workshop, che è un po' un sound walking, un po' qualcosa che ha a che fare col comportamento in relazione all'ambiente, estremamente suggestivo, di Fabrizio Saiu per il 25 e il 26, quindi il sabato e la domenica, alla mattina dalle 10.30 alle 13.30. Ah, fantastico. E fra l'altro, se vieni sabato, anche sabato, e quindi resti fino alla fine, poi incontri anche me insieme a Francesca Burzacchini, a Laura Ulisse, che saremo a fare dei lavori per il mercoledì successivo. Ho capito. Per cui prendo due palle al balzo. Quattro piccioni. Che così ho rinominato anche due colonne portanti del certo. Progetto del bestiario. Bene. Altre artiste carissime al festival. E ci tengo a dire anche un'ultimissima cosa, poi vi lascio chiudere, che Fedra ha fatto una bellissima presentazione, e in realtà per Aspera è una squadra di lavoro, che è il cuore pulsante, e quindi Ennio Ruffolo e Maria Donnelly, ma anche Vincenzo Scorza, ma anche Giusy Di Gesaro, anche Sara Garagnani, anche Doriana Zanello e anche tante altre persone che ci mettono il cuore, che veramente sono l'anima di questo progetto. Benissimo, ti ringraziamo. Grazie tantissimo a tutti voi e ci vediamo per il miracolo che avete fatto in questi 10 anni. Infatti, veramente. E poi per dicembre, quando le cose saranno un po' tutte rimesse in sesto, anche voi usciti da quest'ultima data del 29 novembre, ricordiamolo, all'Ippodromo. Vi aspettiamo in studio, sì, naturalmente. Sì, sì, che così. Io vorrei tanto insieme a voi fare proprio un excursus di questi 10 anni, di che cosa proprio significa lavorare sulla città come fate voi e di che cosa si incontra, cosa si trova e cosa non si trova. Ecco. Volentieri, abbiamo tante cose da dire. E noi le ascolteremo e le diffonderemo tutte. Fantastico. Bene, grazie mille. Bacio alla family. Grazie a voi, davvero. Ciao, a presto. Un abbraccio, vi aspettiamo. Ciao. Ciao, Mary. Ciao, ciao. Ciao. E noi, Stefano, ciao. Ciao. Cosa dobbiamo fare? Ci salutiamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. È stato bello e non abbiamo pianto, ma va bene lo stesso. Anche meglio. Avete ascoltato la 197esima puntata di... Coxo Spaziale. Oh. Ma il sottotitolo lo dici qualche volta? No. Coxo Spaziale.